com'è vero che l'amore viene se ne va? Quanti giorni ancora sono ad aspettare qua? Dove ho sostituito a notti sogni e lavoro? L'amore che non trovo. Sembra strano che da solo non sono stato mai. Quanti amici e conoscenti, quanti ne incontrai? E quante volte amore ho già provato il volo, con te o senza te. Tu non sai quanta gente qui è passata, attori, salti in banchi e varietà. Ma poche le risposte, i dubbi ancora tanti per il domani che verrà. Guardo fuori e mi domando e non capisco se che cos'altro inventerò per ritornare con te in questa vita dove conta solo l'amore che un giorno ti darò. Guarda, questa è la settimana che partiremo. La luna con la mano saluteremo tra le nuvole del cielo. Guarda là dove si spalanca l'arcobaleno. La nave già parte dietro alle onde ed io ci salirò. Quello che c'è stato senza un rimpianto lo porterò con me. Ma niente ti può dare un risultato, nessuno ti dirà come si fa. Per quante volte ci ho provato a fare i conti, nessuno sa la verità. Ma se è vero che l'amore viene se ne va, ci deve essere un motivo oppure non ci sta. Ed anche solo in questa stanza non sarò solo, con te o senza te. E nei tuoi occhi un'altra volta tutto quel che un uomo sognare mai potrà. Guarda, questa è la settimana che partiremo. Da sopra una montagna saluteremo l'eresia del mondo intero. Guarda là dove si spalanca l'arcobaleno. Le nuvole rosa corrono in cielo ed io le seguirò. Che l'amore viene se ne va, ci deve essere un motivo oppure non ci sta. Ed anche solo in questa stanza non sarò solo, con te o senza te. E nei tuoi occhi un'altra volta tutto quel che un uomo sognare mai potrà.